Buongiorno. Che vuol dire che il Covid è nottambulo? La nostra mafia che ormai non ha più quella sensibilità. E guai a chi mi vuole impedire di utilizzare la parola ricchione. Posso mentre parlo con una signora abbassarmi la mascherina? No? E se non sta un metro e mezzo, no? Dell'autoritarismo da regime sanitario e mediatico smacchiato con rosso sangue dei nostri diritti naturali e costituzionali. Che cos'è il mandato zero? È un mandato, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati. Non ce n'è Covid! Non ce n'è niente! Lo sbarco sulla luna è andata la fascia, pezzo di merda, pezzo di merda, ma te sputo che fai? Buongiorno. Buongiorno un cazzo. Long time radio. Ne fa un'altra. Eccomi qua, scusate, mi è partita la mano. Spingi il verde e spingi il rosso, si chiama effetto Sbano questo, quando spingi le cose a casaggio può succedere, soprattutto de mattina, soprattutto quando guardi due cose contemporaneamente, allunghi la mano per cercare di trovare il pulsante perché vai a memoria, perché insomma quelli bravi fanno così, e poi la memoria non t'assiste. Comunque, buongiorno un cazzo a tutti quanti, è giovedì, dai, che questa è l'unica nota diciamo positiva di questa giornata, che è una bruttissima giornata, piove, piovicica e il culo te s'appiccica, e soprattutto insomma le solite cose che già sappiamo. Detto questo, però, questa mattina esce una nuova puntata di Delenda Cartago dopo tanto tempo, che parlerà di Quinto Potere. Interessante, siamo curiosi di ascoltarla, e ovviamente la ritroverete anche nel meglio di Runtime durante le trasmissioni di domenica. Mentre questa sera non ci sarà Quando Eravamo Futuro, settimana di pausa per ragioni tecnico-tattiche, però ci poteva essere in ballo una cosa, ma poi alla fine non l'abbiamo organizzata bene. Però questo non significa che la cosa non ci sarà, ma non ci sarà ovviamente questa sera, e sarà diversa, sarà una cosa carina, se no la riorganizziamo, perché era comunque, diciamo, era già in programma questa cosa, quindi l'avevamo già messa in considerazione tra le varie puntate speciali di Quando Eravamo Futuro, però poi insomma alla fine non è successo, insomma, diciamo così, per ora non è successo. Poi poteva succedere questa sera, però erano le cose un po' tutte organizzate un po' troppo all'ultimo, grazie a Carlo Sant'Agostino. Detto questo, però, questa sera ci prendiamo una pausa, e se eventualmente non ci dovesse essere la puntata, così come abbiamo detto, sicuramente non c'è, perché ci siamo già detti che rinunciamo, diciamo, a fare questa cosa troppo all'ultimo momento, metteremo la prima puntata di Quando Eravamo Futuro questa sera alle 21, quindi insomma alle 21 state lì, che vi godete, magari se ve la siete persa o comunque non sapete cosa ascoltare, vi godete la prima puntata di Quando Eravamo Futuro. Mentre io ho acquisito delle nuove discografie che mi interessavano, solo che ho dimenticato di inserirle nel database, quindi non ho un brano della premiata Forneria Marconi che avremmo voluto mettere questa mattina, però siccome che non mi ricordavo di non averlo messo nel database, ho cercato Premiata Forneria Marconi nel database, è uscita fuori una canzone, al di là di quelle con De André che abbiamo già messo ripetutamente per non essere un po' troppo su quel pezzo lì, perché poi dopo non me la posso prendere con Michela che mette sempre i Pearl Jam, giustamente, e ho trovato una canzone che non conosco, devo dire la verità, non conosco, non penso di aver proprio mai sentito, però mi ha incuriosito, perché mi ha incuriosito l'abbinamento, insomma, no? La canzone si chiama L'ultimo sogno di Claudio Baglioni insieme alla premiata Forneria Marconi. Sentiamo un po'. Mi è piaciuta la canzone? Ma perché veramente sono rimasto un po' basito, devo dire la verità, cioè nel senso, perché non è che ci so, cioè nel senso, metto una canzone, quanto dura la canzone? Cioè la canzone è una canzone, quanto dura? 2 minuti e mezzo, 3 minuti proprio quando te vuoi sbrigare, insomma. Però è una canzone così, evidentemente era un jingle, uno stacchetto, non so cosa volesse essere, 1 minuto e 7 secondi di canzone, ma ha lasciato veramente un po' così, un po' sbiazzato. Vabbè, a Baglio, poi vedi, dice, perché non metti Baglioni? Ecco perché metto Baglioni, perché insomma, anche se sarà tema di una delle prossime puntate di Quando Eravamo Futuro, che ritorneremo presto poi a parlare anche di cose legate insomma a fenomeni del costume, non soltanto legate ad oggetti e creazioni tipo film, telefilm e via dicendo. Comunque, detto questo, io come primo argomento oggi, diciamo, qui forse mi sono reso conto di essere un po' in controtendenza su un pensiero, perché vorrei parlare un po' di Covid. Sai che tanto non lo facciamo, perché alla fine insomma, abbiamo fatto finta che questa cosa ci fosse di meno, diciamo, fosse lì, sì, i numeri alti, però tanto oramai non fa più niente di male, cioè sta male un pochetto, come te prendi. E quindi alla fine se ne parla poco, ecco, diciamo, abbiamo preso anche noi, a parte Walter magari nelle orazioni della sera, che comunque uno spazio gli dedica sempre, in generale noi ci siamo resi conto che se ne parla più poco, insomma, di sto Covid, se non ovviamente quando so quelle cose abbastanza eclatanti che in qualche maniera ti portano a riparlarne. E io la cosa che ho osservato e di cui abbiamo parlato tante volte, e questa è ovviamente una mia osservazione, cioè diciamo una mia percezione più che una mia osservazione, perché non ho gli strumenti per poter capire se sia così o no, è il fatto che la differenza tra il governo Monti e il governo Conte e il governo Draghi sta nel fatto che Conte, diciamo, nel momento dell'emergenza ha bypassato tutta una serie di infrastrutture, diciamo così, perché quando ci sono ovviamente delle emergenze, delle situazioni, ma anche in generale quando ci sono dei finanziamenti al fine di una progettualità, arrivano questi soldi dall'alto, spesso e volentieri dall'Europa, questi soldi fanno un certo iter, e mentre che questo iter fa questo transito, chiaramente, diciamo, anche per intercessione, diciamo, per intermediazione, qualcuno si prende qualcosa, cioè c'è sempre questo. E prevalentemente questo discorso va fatto alle banche, no? Perché per quanto le banche non siano un negozio di scarpe, quindi debbano comprare, diciamo, il bene per poterlo vendere, e quindi se non lo vendono si trovano poi in difficoltà dal punto di vista economico, perché si trovano magari con il magazzino pieno ma le casse vuote, le banche gestiscono soldi sulla base di interessi, e quindi è un po' come di io aumento il costo dell'aria, poi fondamentalmente, chiaramente questa è la semplificazione, no? E quindi io mi domando sempre come fanno le banche ad essere in difficoltà, se non ovviamente per colpa di operazioni sbagliate che comunque tutti, compresi i governi, si mettono lì a cercare di mascherare per evitare che escano fuori chissà cose peggiori, perché chiaramente in una crisi di una banca c'è un collegamento più globale, cioè che si porta dietro tutto, no? Che si porta dietro tutti. Quindi è chiaro che, insomma, diciamo, i governi tendono a avvantaggiare le banche anche quando le banche potrebbero benissimo non averne bisogno. Ecco, diciamo che Conte, secondo me, in un determinato momento ha bypassato questa cosa, e infatti, come abbiamo raccontato già diverse volte, quando c'è stata l'occasione di richiedere un ulteriore supporto per insomma, che era dovuto da decreto perché comunque le aziende erano in difficoltà, alcune banche hanno detto alle persone che sì, tu c'hai diritto di chiederlo, perché ovviamente poi dopo era completamente impossibile estrapolare questi procedimenti dalle banche, no? poi alla fine comunque diciamo qualche cosa anche Conte ce l'ha infilata, no, per quanto riguarda le banche, anche perché sì, è nobile il fatto di fare una transazione diretta Stato-cittadino, però è vero pure che non è che poi completamente distrugge improvvisamente un'infrastruttura, no? Cioè nel senso comunque ci vuole sempre un po' una moderazione nelle cose. O alcune banche che magari hanno insomma avuto atto di poter gestire determinati finanziamenti o determinate agevolazioni o determinate sospensioni, magari facevano, dicevano al cittadino sì sì tu hai diritto perché il governo ti mette a disposizione, però sappi che insomma potresti finire insomma come segnalazione, come insofferenza, diciamo così, perché stai a chiedere troppo. Allora lì dove sta la tutela dello Stato? Sta nel fatto che lo Stato ti dice questa cosa le banche non la devono fare, però se la fanno io non ho visto niente, che è la stessa cosa dei bonus, i bonus 110. Io comunque continuo a ricordare che in teoria io la mia caldaia che ho comprato con il bonus al 50% l'ho pagata tre volte tanto, virtualmente l'ho pagata tre volte tanto che se non ci fosse stato il bonus. Perché? Perché l'ho pagata poco di più di quanto sarebbe costata senza il bonus, cioè quindi nonostante il bonus, perché improvvisamente quelle caldaie, quella che ho preso io da 1100 euro costavano 4000 euro, così misteriosamente, nessuno si è mai reso conto di questo. Comunque invece giustamente Draghi giustamente dal suo punto di vista sta applicando adesso invece una politica inversa, che è la politica di riportare e ripristinare, cioè quello che si chiama poi la restaurazione, no? Di restaurare l'ordine comune delle cose, ossia praticamente tutte le cose devono passare per i giusti canali perché così tutti possano prendere un pochino dall'intermediazione, però allo stesso tempo ha applicato anche una politica che è la stessa politica che hanno applicato tanti governi liberali, liberisti, diciamo, non liberali, scusate, all'interno insomma del, cioè intorno al pianeta, come l'America, l'Inghilterra e tante altre realtà, dove a fronte di una quantità di contaminazioni, insomma di infezioni diciamo importante, comunque rispondevano con che ci vuoi fare, insomma fondamentalmente, no? Però è vero pure che la differenza tra l'Italia e alcuni di questi stati è che l'Italia ha applicato una campagna di vaccinazione, quindi tra virgolette di importante immunizzazione, anche insomma di altissimo profilo, altissimo livello, e questo secondo me oggi porta comunque l'Italia a poter fare questa azione, diciamo, del tornare alla tra virgolette normalità, sempre invitando tutti a fare il buon senso, cioè a usare il buon senso. Perché? Perché comunque c'è una popolazione, diciamo, più recettiva da un certo punto di vista, no? E infatti vedete che il numero dei contagi oggi è abbastanza spropositato, non oggi, insomma, durante questo periodo, ma comunque le conseguenze dal punto di vista tecnico, quindi la pressione sugli ospedali e i decessi sono gli stessi che quando avevamo 1000, 2000 o 3000 contagi al giorno, che era il periodo in cui eravamo tutti più preoccupati perché il virus in quel momento era veramente un po' più assassino, diciamo, non tanto sulla percentuale di morti che sicuramente era alta, quanto ovviamente nella percentuale, cioè nella pressione che faceva nel sistema sanitario, che in quel momento come abbiamo visto, come ha raccontato anche Walter sul fatto dei russi che sono venuti a bonificare, a sanificare, insomma all'inizio noi eravamo non preparati. E questo poi è un discorso che faremo, torneremo a fare, perché io sto cercando di contattare delle persone per sapere se vogliono venire a parlare da noi, anche da noi, di questo, cioè il fatto che comunque non è vero che non esistano dei piani pandemici a livello globale. Il problema è che qui all'inizio tutti hanno un po' sottovalutato la cosa. Comunque quello che sta succedendo adesso è un processo inverso, cioè quello là del tornare alla normalità. E io qui dico la cosa che insomma probabilmente mi rende leggermente in contrapposizione con il pensiero di tanti altri, tutto sommato ha un senso, cioè ha un senso perché nel prolungarsi di una malattia e nell'aver innescato un meccanismo che eventualmente con ulteriori richiami e via dicendo ha comunque protetto la stragrande maggioranza della, della popolazione, è normale che per uscire da un momento di crisi che poteva cancrenizzarsi, diciamo poteva diventare organica, diciamo così, insomma, no? Quindi cronica, ecco, diciamo da questo punto di vista è normale che ci debba essere lo sforzo per tornare alla normalità, anche se questo porta a delle scelte impopolari come quelle appunto di apriamo tutto, famo tutto, sbragamo tutto e via dicendo. Però ci deve stare a un certo punto, un momento in cui uno dice ok, secondo me adesso ci sono le condizioni per farlo. L'unica cosa sulla quale siamo scettici in tanti è che probabilmente non sappiamo se questo è il momento per poterlo fare, ce lo dirà la storia sicuramente, però c'è bisogno di un ritorno alla normalità, soprattutto anche per una questione di decompressione economica e finanziaria dal punto di vista globale, ma anche per una decompressione psicologica da parte della gente che tra l'altro proprio in questo momento in cui abbiamo sostituito la preoccupazione per una pandemia che aveva abbracciato tutti con una guerra, anche se poi non c'è stata una vera e propria transizione, come abbiamo detto il Covid c'è e lotta con noi, e con tra la pandemia è ovviamente una guerra che sicuramente da un certo punto di vista riporta ad immagini più conosciute, no? Cioè un archetipo più identificabile, diciamo, per quello che è l'uomo, perché è un qualcosa che fa parte della sua natura e non è esterno, esteriore e imponderabile a lui. Insomma, la pandemia è una cosa che tu non vedi, non puoi controllare, non sai come gestire da un punto di vista proprio atavico, no? Dentro di noi. Invece la guerra fa parte della nostra storia, quindi del nostro essere umani, appunto. E quindi secondo me tutto sommato in questo momento ha senso quello che sta succedendo, anche se capisco che in molti si può non essere d'accordo. Up, Heiter, Hop Heiter, il nostro amico Sven Carlson, che ogni tanto ci viene a trovare qui sempre dalla database di Epidemic Sound. Sven mi ricorda sempre il mio amico Sven Goran Eriksson, che voi ricorderete, insomma. E Sven Goran Eriksson, che chiamavo amichevolmente Svengo, che così si chiamava secondo me. E Sven Goran Eriksson mi porta, insomma, anche così indirettamente a quello che è il secondo argomento che vorrei trattare oggi, e che, insomma, tra una fresca e una frasca non ho ancora trattato, pur, insomma, essendo passati già dei giorni, delle settimane che insomma ci bruciano dentro queste cose. Anche se una cosa un po' strana, quella che sta succedendo in questo paese, martorizzato da tanti problemi. Intanto ciao Walter, ciao Michela, che dice di non mettere sempre i per gem, questo lo dici tu, ma no, in realtà ultimamente non li stai più a mettere. C'è stato un periodo in cui, insomma, perché poi tu c'avevi la gobala, no? Tu mettevi i per gem, se non mettevi i per gem mettevi quell'altro, come si chiama, vabbè. Comunque, dicevo che sta succedendo una cosa inquietante nel nostro paese, una cosa che secondo me deve generare un po' un allarme culturale, perché l'indignazione per l'eliminazione dell'Italia dai mondiali c'è, ma non è così importante così come è stata, insomma, 4 anni fa, no? Quando fu Ventura, insomma, a sventura a portare l'Italia fuori dai mondiali. E questo lo possiamo un po' analizzare anche, insomma, con una mente sopraffina, con un cervello, insomma, pronto e reattivo. Possiamo pensare, vabbè, c'è il Covid, c'è la guerra, insomma, magari uno si incazza per cose diverse. Sì, è vero, però, come si diceva, non dicevano i romani pane circensis, poi non so se si diceva così, però adesso mi è rimasta sta cosa un po' così, forse perché l'ho sentita di Dalo Tito, magari. Comunque, in realtà, comunque, lo sport in qualche maniera svia l'attenzione delle persone magari dai problemi seri, sicuramente, a volte anche nel bene, cioè, nel senso, comunque, non tutti, soprattutto se vediamo la cosa dal punto di vista della massa popolare, sono in grado di affrontare magari una quantità di stress, no? Ogni tanto, come dicevamo prima, bisogna anche decomprimere, no? In qualche modo. E la decompressione in questo caso passa per il calcio che diciamo, si dice sempre, questo è un paese disunito, ma quando c'è la nazionale siamo tutti uniti. In realtà non è vero un cazzo, cioè neanche quando c'è la nazionale siamo uniti, perché, e qui c'è un po' un discorso da fare, e un discorso anche qui atavico, che sebbene nei momenti di fortuna, diciamo, della nostra nazionale, quando il nostro calcio produceva naturalmente comunque dei campioni, dei talenti, e quando c'erano comunque quegli investimenti che permettevano alle squadre di calcio di portare, tipo, io mi ricordo l'Udinese, cioè, c'era presente l'Udinese con Pro Zico. Insomma, ragazzi, Zico, cioè, nel senso, di che stiamo a parlare? Maradona, Batistuta, Crespo, ma ancora prima Falcao, Cerezo, adesso non mi vengono neanche in mente, insomma, tutti i grandi campioni che ci sono stati in Italia, no? Quel tedesco dell'Inter, adesso Rummenigge, cioè, quanti ne abbiamo visti, insomma, no? Ma questo perché c'era un connubio tra una tradizione calcistica importante, che era quella italiana, e chiaramente un aspetto più economico, che riusciva a far sì che il nostro campionato per tantissimo tempo è stato il campionato più importante al mondo, probabilmente. Conciliato col fatto che avevamo vinto 3 titoli mondiali, anche se 2 titoli mondiali li avevamo vinti nei primi anni 20 del 1900, e comunque facevano titolo, insomma, nel senso. Poi gli altri 2 abbiamo vinti dopo, insomma, quindi in 82 e nel 2006, quanti abbiamo vinti? 5 alla fine, quanti cazzo abbiamo vinti di tutto il mondo? Sì, forte Italia. Comunque, detto questo, questa situazione però, diciamo, nascondeva, cioè, fino a che le cose andavano bene, nascondeva un fatto che c'è sempre stato, no? Cioè, voi dovete considerare che nella nazione italiana succede ad oggi a Ciro Immobile quello che succedeva ad esempio a Pruzzo quando giocava nella Roma, no? Cioè, Pruzzo quando giocava nella Roma non faceva 150.000 gol, però era probabilmente nell'82-83 in quegli anni là era probabilmente il centravanti, uno dei centravanti più forti in Italia. Di conseguenza, infatti c'era stata diatriba, no? Cioè, perché Rossi e non Pruzzo, no? Ad esempio, perché nella nazionale italiana si ragiona a clan. Poi lasciamo perdere Paolo Rossi, che comunque è un altro tipo di personaggio al quale io comunque sono legato per altre ragioni, no, anche per altre ragioni, così affettivamente, diciamo, no? Quando eri ragazzino comunque era Paolo Rossi quello che ha fatto i 6 gol al mondiale dell'82 e via dicendo. Perché esistono i clan, esistono gli schemi, esistono, diciamo, i rapporti tra procuratori, squadre di calcio, tutti coloro che comunque prendono i giocatori, li valorizzano e impongono, diciamo, la loro forza all'interno di quello che è la Federcalcio e quindi ovviamente la costruzione della nazionale. Questa è una cosa che c'è sempre stata, chiaramente, soltanto che, ribadisco, fino a che funzionava, la cosa non... cioè, nel senso, alla fine sì, lo dicevano, no? C'erano, che ne so, i giocatori delle squadre, che ne so, del Napoli, della Roma, della Lazio e magari de altre squadre del centro-sud, che magari si lamentavano perché non riuscivano ad arrivare in nazionale, e invece magari quelli del nord stavano tutti in nazionale, anche gente, insomma, noi ricordiamo, cioè, che in nazionale c'era Berti, c'è stato il mondiale quello negli USA che noi giocavamo con Berti piuttosto di mettere magari un giocatore che veniva, che ne so, da Roma o da Lazio, faccio un esempio, insomma, no? Però mo, al di là, no, questa cosa strettamente campanilistica, diciamo che il calcio italiano è un calcio corporativista basato su quello che è poi un po' la logica, la cultura della politica in Italia, cioè del io te do a te, tu me dai a me, e i più forti comandano. Che questo non è strettamente un indice di meritocrazia, perché la meritocrazia andrebbe applicata al singolo atleta, non al potere di chi impone la presenza del giocatore piuttosto che di quell'altro. Tant'è che giocatori che non hanno mai visto la nazionale, quando andavano a giocare in Juve o Milano o Inter, improvvisamente arrivavano in nazionale, così, misteriosamente. Anche perché chiaramente per Juve, Inter e Milan il giocatore acquisiva magari valore, se quel giocatore poi non era magari quello che loro, se lo potevano rivendere al doppio di quello che avevano pagato, no? Perché poi, insomma, è un po' sempre questo il discorso. Comunque, quello che è successo per la non qualificazione d'Italia ai mondiali è la consacrazione, diciamo, perché, come abbiamo detto, una volta non ti qualifichi ai mondiali, vabbè, può succedere, era già successo. Due volte non ti qualifichi ai mondiali è indice di una crisi profonda di un sistema che funziona ancora come 30 anni fa, ma che purtroppo non c'ha più le gambe per reggersi come 30 anni fa, perché non ci sono più i giocatori naturali che escono dal nostro calcio, non c'è più l'investimento sulle scuole, quindi sul reparto giovanile, se non l'investimento del reparto giovanile è al 50% composto da stranieri. E allora, se queste sono le condizioni, sono due le cose: o le nazionali, e quindi il concetto di nazionalità nel calcio deve perdere, diciamo, il suo valore, e quindi si fa una nazionale europea, e vabbè, allora lì diventa un po' tutto diverso. Se comunque si deve fare ancora un campionato basato, o dei campionati basati sulle singole nazioni, poi le singole nazioni hanno degli obblighi di dover utilizzare giocatori di tutto il territorio dell'Unione, e comunque i giocatori stranieri costano di meno dei giocatori italiani e via dicendo. Eccola là che, insomma, quello che è successo è un grosso patatrac, dove i grossi finanziatori nel calcio in Italia hanno fallito, quindi se ne sono andati, si sono allontanati, lasciando spazio a investitori stranieri o fondi di investimento. I giovani non vengono su perché chiaramente cioè, si trovano già la metà della strada sbarrata da coetanei che vengono da altri paesi, e in più mettiamoci che comunque tutto il calcio ha investito e investe tutte le sue risorse su una, praticamente su soltanto una realtà, affinché questa realtà porti l'Italia a livello di club a determinati livelli e mantenga quei privilegi UEFA che la Federazione Italiana dovrebbe o pensa di dover avere. Il problema è che questa focalizzare tutto su una sola entità sportiva poi alla fine non fa altro che distruggere, annichilire tutto il resto del movimento, perché chiaramente rimangono tutti con le briciole, e questo, questa situazione non porta neanche a dei risultati, cioè non ci sono degli effetti reali. Cioè la Juventus ad esempio non ha vinto 4 Coppe dei Campioni negli ultimi 10 anni che ha vinto gli scudetti, ma non ha vinta manco una. E questo secondo me è un po' la cosa sulla quale bisognerebbe partire a riflettere, ma non lo si farà, perché come sempre, ancora una volta, di fronte a un ennesimo fallimento importante se non storico, nessuno dice vabbè, mi alzo da sta sedia e me ne vado perché forse ho fatto il mio tempo. Questo è sempre Sven Carlson, che non so perché mi è capitato due volte nella stessa database, con A Forbidden Smile, questa canzone molto molto caruccia, insomma questo rocchettino un po' sgeguas. E intanto ci arrivano false segnalazioni su problemi di streaming, cioè non vi sento, ah no scusate, sto ascoltando Rai 1, e vabbè comunque dai, no, non è così. Però salutiamo anche Leo che ci viene a trovare questa mattina in chat e ci sta ascoltando, il quale ci dice anche: comunque è vero, l'eliminazione dal mondiale è giusto una scusa per fare i meme, ma niente di più. Niente, ho detto, attenzione, non niente, ho detto niente, questo è importante perché mi si impasta tutto, macello. L'umore del paese è salvo, sarà pure che in questi due ultimi anni abbiamo avuto di tutto, quindi siamo a posto per decenni. Sì, esatto, è un po' quello che stavamo dicendo, che comunque alla fine è questo quello che succede, insomma, in, in Italia, cioè nel senso. Però devo dire che poi l'indignazione allora scusate, mi sono distratto. L'indignazione alla fine, ok, ci sta, è anche un modo per distaccarsi da questo mondo del calcio così totalizzante in qualche maniera e imporre, perché poi alla fine non è una scelta morale nel senso, oddio, forse abbiamo capito che c'è qualcosa che non va, che brutti che siamo, facciamo una riflessione e miglioriamo noi stessi. No, secondo me è proprio la disaffezione, l'allontanamento, la morte, voglio dire, del rapporto tra pubblico e spettacolo che alla fine deve imporre per forza necessariamente una riflessione. E non dover stare lì a salvaguardare gli interessi di quelli che devono difendere, quei procuratori, quelle squadre, quelle situazioni, perché senza quel giro di denaro. E giustamente, per far capire quanto le persone come Agnelli hanno capito il problema, invece di dire, oh cazzo ragazzi, reinventiamo un movimento calcio in Italia, redistribuiamo in maniera più equa, che dice, ah no, io faccio la Superlega con Real Madrid perché gli servono ancora più soldi. Di tutti i soldi che hanno sperperato inutilmente, gli servono, ma tutti, non è che alla Juve, cioè non è una questione di Juve, gli servono ancora più soldi dei soldi che hanno già strasperperato per fare squadre ultramiliardarie con dei costi che oramai sono completamente fuori controllo. Completamente fuori controllo. E grazie a chi tutto questo? Grazie comunque ai fondi investimento americani che vengono ad imporre quello che è il loro modello, anche in una cosa che con loro non c'è mai avuto un cazzo a che fare. Questa si chiama colonizzazione. Quindi quando voi pensate al fatto che ci sono i buoni e i cattivi nella storia della guerra, funziona così, ragazzi, non funziona, mi dispiace. Comunque volevo dire che si parla tanto di armi nucleari. Io l'altra sera sono stato a una cena e sentivo delle cose, ragazzi, perché l'arma, che era un bombardamento nucleare e poi le armi tattiche, cose qua e là, e vabbè, è il bottone rosso. Allora mi sono andato a leggere un po' di cose, in più ho fatto la mia solita telefonata al mio consulente privato perché io poi alla fine mi sono domandato, no? Ma al di là della quantità, e questo noi già lo sapevamo, soltanto che noi ragioniamo per immaginario collettivo, no? Cioè noi immaginiamo ragioniamo sull'immaginario di War Games, ossia sti missili intercontinentali con testate termonucleari in grado ovviamente devastare il mondo, che quelle non sono l'ultima risorsa, ma sono probabilmente le armi che non verranno mai utilizzate. La differenza invece, il problema sta in tutta quelle sottocategorie di armi nucleari che probabilmente sono state utilizzate, probabilmente altre non sono mai state utilizzate e altre verranno utilizzate sicuramente, che però alla fine compongono la quantità di armi nucleari che rappresentano l'arsenale. Perché se riprendiamo il discorso relativo all'immaginario classico che noi abbiamo, ossia di questi missili termonucleari che partono da Mosca per andare verso New York, oltre ai sistemi di difesa missilistica, i sistemi di difesa aerea e tutto il resto, ovviamente quello è un po' la situazione comunque basata su un'immagine un po' vecchia che noi abbiamo. La cosa peggiore forse è che oggi questi missili intercontinentali e i missili supersonici in particolare ci mettono 8 minuti, 10 minuti arrivare da Mosca in Italia, a Roma ad esempio, per capirci. Quindi anche tutto quello che è l'infrastruttura difensiva, che magari sono stati spesi stramiliardi di dollari per costruire, poi alla fine oggi diventa inefficace. Quindi se si dovesse arrivare all'estrema razio di un attacco globale dal punto di vista termonucleare, sappiate che non ci so Cristi, cioè nel senso, e questo noi lo sappiamo. Ma questa mia documentazione sull'aspetto nucleare non è dovuta da dalla paura di questo tipo di situazione, perché oggettivamente, forse un po' superficialmente, un po' sbrofonchiamente, quello che volete, non sono spaventato di questo. Io sono abbastanza convinto che l'era del nucleare è finita con Hiroshima, cioè il giorno in cui è iniziata, cioè quando la gente in generale, ma anche i governanti, anche i militari stessi probabilmente si sono resi conto di quello che era la devastazione di questo tipo di armi, e consideriamo di armi che sono un decimo di quello che potremmo costruire, che potremmo sganciare oggi, insomma, no? E quindi questo, diciamo, non mi spaventa, non penso che ci sia la situazione perché si venga a creare una cosa del genere, sarebbe un suicidio insensato, tutto sommato, e globale poi, tra l'altro. La cosa che mi preoccupava, cioè nel senso che comunque mi incuriosiva, ma sempre incuriosito, è questa cosa di quando si dice della valigetta, no, col pulsante rosso. In realtà ovviamente non esiste nessuna valigetta col pulsante rosso, se non una valigia con, per esempio per quanto riguarda il sistema americano, una valigia con due parti di codice che devono essere combinate e devono essere inviate ai silos, che ovviamente devono fare il lancio su ordine esecutivo del presidente, che diventa un ordine effettivo. Su questo è come spinge il pulsante rosso, chiaramente. Questi codici devono essere combinati e chiaramente inseriti all'interno di un deposito, di una cassaforte, e questi codici sono anch'essi spezzati e divisi in due all'interno di due contenitori tenuti da due ufficiali che a loro volta devono verificare e controllare, poi aprire e poi successivamente ricombinare un ulteriore codice per poter poi effettuare il lancio girando due chiavi contemporaneamente, no? Questo era quello che si è sempre fatto, come funzionava una volta, ma pare che funzioni ancora così poi, fondamentalmente. Nel contesto, chiaramente, in tutta la procedura, e non c'è una lunga catena di comando da questo punto di vista, quindi non ci possono essere tanti interventi, diciamo così, però all'interno di questo contesto ci può essere un'obiezione di coscienza, un dubbio, un qualsiasi cosa che comunque possa rendere inesecutivo ovviamente l'ordine del presidente. Chiaramente giustamente le persone che stanno lì sono persone mentalmente addestrate per questo, persone che hanno inculcato dentro di loro la logica di dover fare questa cosa, quindi non penso che si pongano il problema di dire no, questa cosa no, che brutto, non posso fare, no, non si può fare, che brutto. Quindi insomma il problema è anche un po' questo, insomma, no? Cioè, perché voi vi ricordate, l'ha raccontato anche Tomaiuolo in Delenda Cartago, ci fu la famosa storia, diciamo, dell'ufficiale sovietico che si rifiutò di eseguire, di rendere esecutivo il lancio, e salvò il mondo, perché poi in realtà il lancio che fu richiesto come ordine esecutivo era a fronte di una rappresaglia nucleare per la segnalazione di un attacco missilistico da parte degli americani che non era mai partito. Cosa diversa è invece appunto il discorso della rappresaglia, perché la rappresaglia oggi è automatica. E infatti questa è un po' la cosa forse più inquietante, perché metti l'ipotesi che parte anche per errore un missile intercontinentale, magari con la testata disarmata, e i sistemi di controllo oggi sono totalmente automatizzati, quindi la risposta sarebbe pressoché immediata praticamente. E vabbè. Questo mi ricorda tra l'altro un film con George Clooney di cui ho parlato ieri proprio con una persona, con Arturino, che però adesso non mi ricordo il titolo, e poi me lo vado a vedere perché era veramente molto bello. Un film tra l'altro in bianco e nero, però non era girato in pellicola, non lo so, ragazzi, non me lo ricordo bene. Mi ricordo che l'immagine era molto fluida, quindi non era pellicolosa, sembrava più televisiva, sembrava più una cosa girata in HD all'era dell'inizio delle prime telecamere HD, quindi mi sembrava molto televisivo, però era figa la storia, perché lui poi fondamentalmente era questo bombardiere incaricato, un bombardiere praticamente invisibile supersonico che superò la cortina di ferro per bombardare Mosca durante il periodo dell'Unione Sovietica, e che aveva ricevuto questo errore per sbaglio, e che tutta la catena di comando americana praticamente aveva fatto del tutto per cercare di fargli capire che doveva tornare indietro, che c'era un controordine, che era un falso allarme e via dicendo, ma lui senza determinati protocolli specifici praticamente non riconosceva l'ordine di abbandono, perché li considerava come potenzialmente un modo, praticamente un sistema difensivo dei russi che cercavano di trarlo in inganno per farlo tornare indietro, fino a che ovviamente non lo chiama anche il presidente degli Stati Uniti, e lui non riconosce la voce, cioè nel senso la riconosce, però dice qualsiasi, cioè questa può essere la voce fatta da chiunque, insomma. Detto questo, ma alla fine lui comunque porta a termine la sua missione, e gli Stati Uniti, per non praticamente per non far scoppiare una guerra termonucleare globale e distruggere tutto il mondo, concorda con l'Unione Sovietica la distruzione di New York. Distruzione di New York che viene tramite praticamente armi americane, cioè praticamente sono gli americani stessi che si bombardano New York, e poi questi piloti si suicidano e si uccidono e si buttano nel mare. Insomma, un film molto particolare, però spiega, diciamo, determinati meccanismi, anche come funzionano certe stanze di comando. Ovviamente, secondo me, non ho mai capito quanto fosse immaginifico e quanto fosse poi realistico, ed era ovviamente ambientato negli anni 50-60, insomma, quindi c'era questa visione, anche il modo in cui venivano immaginate le cose di controllo, insomma, le sale di controllo. Devo dire che era anche un film carino, io lo vidi una volta soltanto a mezzanotte, tipo su Sky, tantissimi anni fa, e non mi sono mai segnato il titolo, per poi dico quasi quasi me lo rivedo. Comunque basta andare, penso, nella discografia di George Clooney e lo si trova, insomma, suppongo, poi è tutto da vedere assolutamente. Intanto il mouse ha deciso che è uno stronzo, insomma. Running out of kryptonite. Ooh, to take you through the night. vabbè, allora ragazzi, rientriamo così andiamo anche a chiudere. C'è un altro argomento, però sarebbe un po' lungo, e quindi vi dico che la prossima puntata, se non succede qualcosa, parliamo del fatto che la democrazia passa per il dissenso. Senza dissenso, ragazzi, non c'è democrazia. Senza senso critico, senza la capacità di obiettare e di mettere in discussione quello che ci viene detto, ragazzi, non esiste più la democrazia. E questo è quello che secondo me sta succedendo in questo periodo, dove il giornalismo è oramai fronte unico di propaganda, sia da una parte che dall'altra, ma se da una parte te l'aspetti, dall'altra magari no. Giustamente, mentre Tomaiuolo ci posta un meme, racconta un meme, c'è Zelensky che scrive, che praticamente è al telefono, e al telefono dice: pronto Will Smith, sai cosa ha detto Putin su tua moglie? E devo dire che mi ha fatto molto ridere. Non so, non bisognerebbe ridere, però raga, che dopo fa? Cioè, non è che potremmo stare qua a piagne costantemente, abbiamo già pianto tanto e ancora tante cose secondo me dovremo piangere. Mentre Walter Sbano mi suggerisce che il film potrebbe essere Good Night and Good Luck. Allora, io devo dire la verità che sono andato su Google e ho visto delle immagini, e potrebbe essere quello, uno perché è bianco e nero, potrebbe essere quello, però lui dice che non si ricorda questo tipo di trama su questo film. Ragazzi, poi me lo vado a vedere, perché lui dice potrebbe essere anche Dottor Stranamore di Kubrick. Boh, non lo so, raga. No. Però vado a cercare, me lo vado anche a rivedere se lo trovo, perché mi era piaciuto molto. C'è questo momento in cui c'è la telefonata tra il presidente degli Stati Uniti, mi pare, insomma, comunque un alto funzionario della difesa americana, e l'ambasciatore americano a Mosca, il quale praticamente, capendo insomma che per lui non c'era più speranza, non avrebbe potuto fare niente, resta al telefono praticamente con questa persona in America e gli descrive gli ultimi istanti della sua vita. Ragazzi, è una cosa incredibile, perché poi tra l'altro si sente a un certo punto un innesco, un rumore metallico fortissimo, e praticamente gli spiegano che quel rumore è il rumore del ricevitore che si squaglia su se stesso prima che la linea venga troncata praticamente. E ragazzi, a me mi era rimasto impresso sta cosa. Poi magari me lo rivedo, il film è una mezza cagata, perché però insomma mi ricordo che c'erano queste situazioni che secondo me, più che fare una vera e propria documentazione dal punto di vista storico, secondo me il film voleva sensibilizzare, mettere paura da questo punto di vista, il fatto che insomma alla fine tu puoi stare lì e passeggiare tranquillamente per la tua città e a un certo punto brilla tutto e ciao. Insomma, io penso che sia un po' questo il discorso. Comunque, detto, la prossima settimana, se non ci saranno altre questioni, parleremo di dissenso, parleremo del fatto che bisogna veramente far tornare la gente a ragionare col proprio cervello, e ci vuole tanta buona volontà, ragazzi, insomma, perché questi sono momenti difficili, sono momenti particolari, ma noi in qualche modo, sono sicuro, ho questa sensazione, questa mia percezione, che sicuramente ce la faremo. Detto questo, vi ricordo che Buongiorno un cazzo è una trasmissione di Runtime Radio. Andate su www.runtimeradio.it e cliccate sul pulsante anch'io e sostenete il progetto, perché è importante, insomma, soprattutto in questi due mesi che sono calati tantissimo gli introiti dal punto di vista pubblicitario da parte di Spreaker, sostenere il progetto permette al progetto di restare in vita, che è questa insomma la cosa più importante da un certo punto di vista, e comunque ci date comunque il vostro contributo dimostrando che lo apprezzate. Lo potete fare con una donazione, una tantum su PayPal, oppure una donazione ricorrente tramite Patreon. È tutto lì sul pulsante anch'io sul sito www.rantameradio.it. Oggi c'è l'ultima puntata alle 20, c'è l'ultima puntata della settimana di Le Orazioni della Sera di Walter Sbano, e come ho detto non ci sarà Quando Eravamo Futuro. Metteremo probabilmente la prima puntata di Quando Eravamo Futuro, così se qualcuno insomma alle 21 non sa cosa ascoltare, gli facciamo compagnia noi. Vi ricordo che durante l'arco della giornata puntata ci sono tante trasmissioni di Runtime Radio in podcast che vengono trasmesse. Alle 8:30 c'è 10 milioni non leggono Nietzsche, alle 9 c'è Tecnobills, alle 10 c'è uno dei podcast videoludici di Runtime Radio, alle 12 c'è Data Nightmare, alle 13 c'è Snap e alle 14 c'è un podcast storico di Runtime Radio, quindi tra quelli generici, non tecnologici, tutta quella miriade, e dico miriade, di trasmissioni che abbiamo fatto in 11 anni, 12 anni quasi di trasmissioni. Detto questo, da me Simone Pizzi è tutto, buona giornata e statevi bene, state tranquilli e state al sicuro. Ciao.